Le fa solo paura cadere e sentirsi più sola del niente. Dentro ai posti vuoti e ti vengo a cercare nei posti vuoti.